Parte il 13 dicembre la carovana Oltre la Fortezza, organizzata da due enti di promozione sociale di Torino, ACMOS e Terra del Fuoco. La carovana di aiuti umanitari arriverà tra un mese in Caucaso, passando per diverse città dell'est europeo. Ci presenta l'iniziativa Bianca di Terra del Fuoco. Bianca, perché la scelta di chiamare la carovana Oltre la Fortezza e perché il Caucaso? Uscire dalla Fortezza Europa, cioè un'Europa al cui interno abbiamo garantito ricchezza e soprattutto sicurezza. Uscire da questa fortezza e andare laddove la sicurezza non è garantita. È nata prima l'idea della carovana e poi l'idea di andare verso il Caucaso. L'idea di andare verso il Caucaso ci è venuta perché, ma in parte per interesse personale. Noi, ad esempio, come Terra del Fuoco lavoriamo già nell'Europa dell'Est, abbiamo iniziato con la Polonia, adesso stiamo iniziando anche dei progetti con la Moldavia, quindi è una zona con cui stiamo iniziando dei rapporti. Dopo l'attentato di Beslan, cioè durante l'attentato, si è parlato un po' di quello che stava succedendo, ma se ne è parlato molto male. Noi abbiamo iniziato ad informarci, a leggere, a parlare con giornalisti e persone che sono state soprattutto in Cecenia, ci siamo resi conto come ci sia praticamente silenzio stampa su questi argomenti. Quali saranno le tappe principali? La prima tappa sarà in Romania, poi ci fermeremo in Moldova, a Chisinau, dove incontreremo una rete di centri giovanili. Praticamente incontreremo degli studenti, cioè dei ragazzi che hanno più o meno la nostra età. Noi hanno detto all'inizio, siamo tutti ragazzi tra i 19 il più piccolo e 34 il più grande, ma l'età media è 24-25 anni. La terza tappa sarà a Kiev in Ucraina, dove anche qua noi incontriamo bene o male tutte le realtà che lavorano con i giovani e con i bambini. A Kiev abbiamo un programma molto intenso, infatti qua incontreremo una rete di anche qua studentesca che lavora per la democrazia. Fondamentalmente è una rete che raggruppa vari, c'è un network per cui varie associazioni, e poi visiteremo l'orfanotrofio e l'ospedale psichiatrico infantile. Ci sarà l'Ossetia, dove andremo a Beslan, dove arriveremo lì l'ultimo giorno di scuola, il 27 dicembre, quindi faremo festa con i bambini. Poi saremo in Ingushetia, a Nasran, all'interno di un campo profughi ceceno, in Georgia, a Tbilisi. Anche lì incontreremo delle realtà studentesche che lavorano su centri giovani e dei profughi ceceni, e poi l'ultima tappa sarà di Istanbul in Turchia, dove speriamo di poterci imbarcare e tornare in Italia. Cosa porterete in valigia? Noi porteremo fondamentalmente dei giocattoli, li porteremo in Ucraina, in Ossetia, in Ingushetia. Ci hanno chiesto, le varie realtà con cui noi collaboriamo ci hanno chiesto proprio dei giocattoli, perché anche se lì sono ortodossi o islamici, non festeggiano Natale, però in realtà ormai quel periodo è vissuto un po' in tutto il mondo come un periodo particolare. Porteremo anche, soprattutto negli ospedali, che sono due se non sbaglio quelli che visiteremo, porteremo anche del materiale sanitario. Lo stiamo raccogliendo grazie alle donazioni che raccogliamo presso le sedi delle nostre associazioni, ma soprattutto facendo alcune iniziative di collette umanitaria davanti ai supermercati qua a Torino nel fine settimana. Arriverete a Kiev qualche giorno prima del secondo ballottaggio. Da chi verrete accolti, e in qualche modo questa tappa ha anche un significato politico? Abbiamo dei contatti con gli studenti, che sono studenti soprattutto universitari, che abbiamo conosciuto in alcuni convegni. Sono tutti ragazzi che fanno politica attiva a sostegno del candidato, diciamo, filo europeo. Non è che parteciperemo a degli incontri prettamente politici, di sicuro però il nostro obiettivo è anche quello di andare a capire esattamente che cosa sta succedendo e raccogliere soprattutto testimonianze dirette degli studenti che hanno vissuto anche momenti drammatici di cui abbiamo visto sui media le settimane scorse. Per cui il nostro obiettivo fondamentale è quello di raccogliere testimonianze dirette da poter poi portare qua in Italia.